La casa, il primo, è un punto centrale della finanziaria, cioè non abbiamo fatto una finanziaria sparsa. C'è nel decreto un piano di 550 milioni di euro per la ricostruzione delle case in degrado del patrimonio pubblico e per l'inizio di un fondo che insieme al patrimonio dello Stato costituirà un volano continuo per la costruzione di nuove abitazioni sociali. Inoltre l'abbattimento dell'ICI e l'aiuto agli affitti insieme al contenuto del decreto costituiscono un pacchetto, costituiscono un piano, un grande piano per la casa che io credo da decenni non faceva parte dell'agenda politica italiana.